vedi che anche quando c'è torre di notte, che anche Zeppo gli faceva scusare il telefono, se neanche che non ha cambiato numero. Ma io so che lo so fare. Comunque, lui crede che io ho paura di lui, ma lui l'altro giorno, tu ricordi che sei venuto con fratello a Santa Maria? Lei crede quando viene con Massimiliano e con gli amici suoi, lei crede di mettere paura a me, ma lui ancora non ha compreso, se io gli metto mani addosso, gli faccio uscire sangue dalla bocca.